31 gennaio del 2022, Disorder anche per oggi lunedì. Ormai appuntamento consolidato che è entrato nel suo 20° anno di esistenza. Appuntamento che andrà avanti fino alle ore 23 circa. Vado a salutare Tabula Rasa, Antichrist, Rosa La Vita, Giulia e Alessandra qui a Roma, Enrico Ponzoni di Sokushi Butsu Project. Pindar nella persona di Cecilia Miradoli, Ale Trinity e Valerio Michetti della Grazia Obliqua, Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal. E poi Audio Chaos con Simone Scalise. Ricordo il sito della radio che è www.ondarossa.info. Sul sito si possono trovare le varie modalità di adesione per quanto riguarda la sottoscrizione per questa emittente autogestita ormai da lontano 1977 e priva di qualsivoglia forma di pubblicità. Saluto anche Cornelio Basilisco di Umanima, che prima o poi sentiremo in questa nuova realtà industrial. Allora, noi invece andiamo a ritirare fuori gli esordi per quanto riguarda Corde Oblique. Le avevamo lisciati con l'ultimo lavoro di uno o due anni fa, adesso non ricordo esattamente, una ottima ultima prova, il che poi mi ha nel tempo andato un po' a sollecitare nel recuperare invece i propri vecchi lavori, iniziando dal primo che portava il nome di Respiri e che uscì nel 2005. E allora ci ascoltiamo l'introduzione, intro, My Promise e la terza traccia dal nome Eventi. I diamanti sono chicchi di riso, piccole perle che sfamano i poeti. Thank you. frammenti che spazzano via interi. Thank you. dietro, restiamo attoniti, increduli, attenti a reggere l'peso di tutti gli eventi. Era lo suo grande inizio per quanto riguarda Cordo Blique. Si chiamava Respiri ed uscì la prima volta nel 2005 con successive ristampe. Uno dei progetti più interessanti del vasto calderone neofolk italiano. Uso il termine neofolk per darci un termine di riferimento da prendere ovviamente alla larga. Avevamo lasciato Cordo Blique con The Moon is a Dry Bone nel 2020, un album che uscì per la Dark Vinyl. E quindi in questi giorni ho ripensato di andare a ripescare invece proprio l'esordio di circa 15 anni fa, che uscì per la gloriosa Ark Records, etichetta dentro la quale, intorno alla quale soprattutto ruotavano, oltre che Cordo Blique, gli Argine, Ashram, che poi avevano in comune componenti e intenti. Per esempio c'è Corrado Videtta che cantava anche nella terza traccia, appunto, Eventi. E quindi oltre Riccardo Principe, il fondatore di Corde Oblique, troviamo Alfredo Notarolberti anche negli Argini, al pari di Luigi Rubino. Questa voce era di Caterina Pontrandolfo, che non c'è più, credo che al suo posto ci sia Annalisa Madonna, poi c'è Alessio Sica e Umberto Lepore. E dunque nel tragitto Napoli, Caserta e dintorni, questi tre gruppi che hanno scritto la storia dell'acustica folk qui in Italia. Saluto Flavio Derbecante di Noise Cluster e di BP te stesso, Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta. Rimaniamo su cose più o meno acustiche, più o meno riconducibili al neofolk, ma cambiamo totalmente geografia e forse anche intenti, almeno parzialmente. Loro sono On the Wind and the Moon e quindi ci spostiamo nella nordica Danimarca. E dopo 10 anni finalmente torna Kim Larsen. Questo è Your Love Can't Hold This Wrath of Sorrow. Nuovo lavoro. 10 anni di silenzio, ma il ritorno fortunatamente di valore, e noi andiamo a conoscere questo album con la title track e la traccia successiva dal nome Let's Take a Ride. escludendo un live, erano quasi 10 anni che non avevamo notizie di On the When, On the Moon, visti anche a Roma qualche annetto fa. Kim Larsen dalla Danimarca, e chiaramente abbiamo iniziato la trasmissione con due concetti diversi di affrontare la tematica neofolk, l'essere così mediterranei, corde oblique decisamente più nordici e più attigui, per esempio a Dettingen e dintorni, per quanto riguarda On the When, On the Moon, ivi compresa la tromba suonata da Bow Rand, che rende, e fa pure rima, che rende il tutto ovviamente morriconiano come è da copione. Saluto Mariano a Berlino. Dunque, un buon ritorno per On the When, The Moon, un album uscito proprio sul finire dell'anno scorso. Your Love Can Hold This, Rat of Sorrow, titolo lungo, cresce per la Ed Runar, Mick Runar, etichetta proprio dello stesso Kim Larsen, e che si avvale anche di violini, viole, una vera e propria orchestra che lo supporta in questa sua ultima opera. Sentite che intermezzo elettrico noise.